4 mattino. Solidarietà a Macron, ditegli se chiama quel giannizzero di Haftar armato da loro per completare quello che aveva cominciato Sarkozy con Gheddafi, e gli dica di farci liberare immediatamente i 58 marinai italiani detenuti, anzi sequestrati illegalmente da Haftar in Libia da ormai 2 mesi, 60 giorni. Sottovalutato la prima e sopravvalutato. Ma perché nessuno ha il coraggio di dire che non si ha idea di come questo virus si sviluppi? Perché altrimenti non si capirebbe come Francia, Germania, Belgio e altri paesi siano nelle nostre stesse condizioni. Eppure tutti hanno avuto la prima ondata. Questo è, nessuno sa. Buongiorno Simone. Stamattina non riesco proprio a essere proprio d'accordo con lei. Gli italiani si sono comportati male, negligenze ci sono state a livello regionale, comunale, politico, nazionale, europeo e chi più ne ha più ne metta, ma gli italiani si sono comportati male. Negare questo non è giusto. No, ma io voglio essere molto chiaro, io non è che stia negando che una parte degli italiani si è... Poi bisogna vedere cosa intendiamo per comportata male, ha avuto meno attenzione rispetto al primo periodo. Questo è chiaro, è evidente. Però quello che sto dicendo io è che in parte questa minore attenzione è giustificata dal fatto che i messaggi che sono arrivati da tutte le istituzioni sono stati estremamente tranquillizzanti. In gran parte, se si fa eccezione per Ricciardi, se si fa eccezione per Galli, se si fa eccezione per il ministro Speranza, e di questo gli va dato atto, ha detto stiamo attenti perché questa cosa rischia di tornare. Però, ripeto, il Presidente del Consiglio ha detto che eravamo pronti, il Commissario Arcuri ha detto che eravamo pronti, autorevoli esponenti del Comitato Tecnico Scientifico come Locatelli ci dicevano ma guardate, io non credo che la seconda ondata ci sarà, se ci sa, ammesso che ci sia, sarà, non credo che sarà come la prima, sarà più debole. A fronte di questo è chiaro che sono passati una serie di messaggi molto tranquillizzanti e quindi le persone si sono rilassate. E non è che si sono comportate male o bene. Sul fatto, io mi trovo invece perfettamente d'accordo con l'ascoltatrice che dice la realtà è che molti dovrebbero ammettere che di questo virus non sappiamo ancora abbastanza. Uno degli esempi è le conseguenze a lungo termine di Covid, che ancora non sono chiare. Questo è. Poi sì, appunto, gente che senza mascherina si assembrava, parlava, magari andava a bere fuori, scene di movida, eccetera, eccetera. Per carità, siamo perfettamente d'accordo. Però, mettiamola anche sul messaggio che hanno dato le istituzioni sanitarie e politiche. È la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, è venerdì 30 ottobre, e tra un attimo arriveremo, lo dico all'ascoltatore che ha mandato il primo messaggio, a tutta la vicenda di Nizza. Ecco i martiri autentici è il titolo di Avvenire, la parte dedicata alla rassegna stampa, come sapete è il titolo di Avvenire. Regioni in ritardo su 3.300 posti di terapia intensiva, il Fatto Quotidiano che si dedica a Covid è tra i pochi, perché in realtà gran parte dei giornali aprono su quello che è successo appunto nella cattedrale di Nizza. Fa strage a Nizza, partito dall'Italia, è il titolo del Corriere della Sera. Francia sotto attacco, 2 decapitati, è quello della Stampa. Attacco in chiesa, il Messaggero. Senza tregua, il Manifesto. Strage nella Basilica, il killer arrivato dall'Italia, è il titolo della Repubblica. Accolto in Italia per sgozzare in nome di Allah, è il titolo del giornale. Era sbarcato a Lampedusa l'islamico che ha sgozzato 3 cristiani a Nizza, è il titolo della Verità. Bisogna reagire all'Islam, è quello di Libro. Di questo tema, tra l'altro, parleremo più avanti alle 8:35, dell'attentato di Nizza e anche dei nostri rapporti con l'Islam, evidentemente. Con il mondo musulmano. Il governo aiuti, trattiamo con l'Unione Europea, il titolo del Sole 24 Ore su questa vicenda del rischio per alcune aziende di restituire le somme relative agli aiuti ricevuti. E questi sono i titoli principali dei giornali. Iniziamo, oggi non iniziamo da qualcosa di diverso, ma iniziamo proprio da Nizza. E fatemi iniziare da un quotidiano online, da un giornale online, da una testata online, che è l'Huffington Post. Perché una delle cose che più mi ha colpito oggi è l'editoriale firmato dal direttore dell'Huffington Post, Mattia Feltri. Ed è un editoriale dedicato al tema della libertà di espressione, che è il tema dal quale tutto nasce alla fin fine, perché tutto nasce dalla decapitazione del professor Samuel Paty, che aveva mostrato le vignette di Charlie Hebdo su Maometto nella classe, in una lezione nella quale si parla proprio di libertà di espressione. Da là si è scatenato tutto. Poi dietro, come abbiamo detto prima, ci sono molte cose, c'è ovviamente ci sono delle questioni, delle tensioni geopolitiche tra Francia e Turchia, che sono molto forti, sulla Libia, sulle acque territoriali di Cipro, c'è la volontà di Erdogan di assumere la leadership del mondo musulmano, tutto quello che abbiamo raccontato, ovviamente. E però tutto parte da qua ed è un tema di negoziabilità o meno dei nostri valori alla fin fine. L'Europa non sa difendersi e perde se stessa, è il titolo dell'editoriale di Mattia Feltri. L'incolmabile e spaventosa differenza fra la strage islamista di stamattina, perché è stato scritto ieri a Nizza, e le precedenti, in Francia e non solo, è che quelle derivavano da minuziose strategie di terroristi asserragliati nelle grotte afghane o nel sedicente stato del profeta. Questa deriva dall'incontinenza e dalla sconsideratezza verbale del presidente di una nazione, la Turchia, che solo pochi anni fa ambiva all'ingresso nell'Unione Europea, che tuttora partecipa a organismi europei, compreso quello di tutela dei diritti umani, e che occupa un ruolo rilevante nella NATO, la più grande organizzazione di difesa internazionale. Le pigre solidarietà offerte ieri alla Francia, prefabbricate e desolanti quelle di Roma, viaggiano parallele ai nervosismi per la disinvoltura di Charlie Hebdo, imperterrita per la sua strada, compresa l'ultima tremenda copertina su Erdogan che solleva la gonna a una ragazza e il panorama gli ricorda Maometto. Poi un giorno parleremo di quanta responsabilità presupponga la libertà, ma è come se oggi avessimo lasciato a dei vignettisti bricconi la gestione della terapia intensiva dei nostri valori cruciali, e mentre noi seguiamo annoiati il bollettino clinico del tracollo, ci scandalizziamo dei loro modi brutali. Oggi, a quasi 6 anni dal massacro, Charlie Hebdo, ospitato in un bunker dove esercita il suo diritto di stampa, di critica, di satira, di blasfemia, ma è il bunker nel quale viviamo tutti noi a essere più asfissiante. Ci infiliamo da soli ogni volta che ci chiediamo, anche noi giornalisti, se usare certi termini e ripubblicare certe vignette finirà con l'offendere la suscettibilità di qualcuno, se, in definitiva, metteremo a repentaglio la nostra sicurezza. Ma una società che tiene più alla sicurezza che alla libertà su cui è fondata è già una società morente. Aggiunge Feltri che non si tratta, chiude dopo un altro ragionamento dicendo che non si tratta di invocare la guerra, si tratta più banalmente di rinunciare a qualcosa. La sudditanza verso la Cina e verso la Turchia parlano di un'Europa terrorizzata all'idea di perdere un contratto, un mercato, una percentuale del suo già sfibrato PIL, di doverlo spartire con altri migranti. Ma come sapremo mai restare in piedi se siamo disposti a trattare sul prezzo dei presupposti sacri della nostra identità? Ed è questa domanda che resta sullo sfondo di tutta la vicenda di Nizza. Vicenda di Nizza che ovviamente si compone anche della cronaca e delle tensioni politiche di politica interna italiana che genera questa cronaca, perché l'assassino Brahim Houssaoui, 21 anni, era arrivato a Lampedusa con un barchino il 20 settembre scorso, dopo le procedure di fotosegnalamento, accompagnato nell'hotspot dell'isola. Il 25 settembre, è il racconto del Corriere della Sera, pagina 3, trasferito sul traghetto Rhapsody, dove trascorre le 2 settimane di quarantena imposte dall'emergenza Covid con altri 800 migranti. Gli altri lo raccontano come sempre al telefono, racconta Giovanni Bianconi a pagina 3 del Corriere della Sera. Da Lampedusa a Bari è stato respinto e poi è sparito nel nulla. E dunque questo scatena una polemica politica che trovate un po' su tutti i giornali con, lo avete sentito, Matteo Salvini che accusa la ministra Lamorgese di responsabilità morale di quello che è successo a Nizza e mette, se volete, il dito nella piaga di una questione che qua, da queste parti, abbiamo sottolineato più di una volta, cioè le mancate conseguenze di un decreto di espulsione di un foglio di via. Cioè si dà un foglio di via e si dice a una persona devi lasciare il paese, punto, e poi ci si dimentica di questa persona che nella fattispecie appunto è andata in Francia. Io le rubriche dei giornalisti devono essere piene, perché ogni essere piene di pensatori francesi, perché ogni giornale ha il suo che interpella e che gli dice una cosa diversa tra quello che dice che abbiamo ceduto ai nostri valori fondamentali, che stiamo cedendo ai nostri valori fondamentali, passando per esempio per Marek Alter, che è intervistato da Pietro Del Re a pagina 3 di Repubblica, dice che il laicismo è la nostra forza, ma che sulla vicenda di Charlie Hebdo l'Eliseo ha sbagliato perché appunto ha fatto l'elogio della libertà d'espressione della stampa diventando di fatto l'avvocato delle caricature di Maometto e offrendo il fianco a Erdogan, che l'ha subito denunciato al mondo musulmano come il nuovo crociato. Altre opinioni le trovate un po' dappertutto su tutti i giornali su questo tema e sono tutte di pensatori, filosofi, sociologi politologi francesi dei quali ovviamente, come dicevo, le rubriche dei giornalisti devono essere piene, perché ne scopro sempre nuovi ogni volta che succede qualcosa in Francia, sui quotidiani ne scopro sempre di nuovi. Stefano Zurlo sul Giornale a pagina 5, se volete un altro aspetto, si concentra su quelli che nelle denunce, nel denunciare l'attentato terroristico, nell'esprimere cordoglio alla Francia, non citano mai la parola islamico e dicono solamente terrorismo. E tra questi ci mette Papa Francesco, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, Bergoglio, che dice condannare nel modo più forte tali atti di violenza terroristica, vicinanza alla comunità cattolica e a tutto il popolo francese. Mattarella, che parla di deplorevole gesto di violenza, determinati nel contrastare il fanatismo di qualsivoglia matrice. Conte, un vile attacco che non scalfisce il fronte a difesa di libertà e pace. Le nostre certezze sono più forti di fanatismo, odio e terrore. Ma nessuno in queste parole ci mette, dice Zurlo, la parola terrorismo islamico. Una pausa. "24 Mattino". Signor Spezia, ma provi a fare questa domanda quando intervista qualche politico, qualche presidente di regione. Perché alla fine della prima ondata le regioni hanno istituito un piano per aumentare del 50% le terapie intensive in alcuni casi e in realtà non hanno fatto un bel niente se non aumentare di poche unità? Se è una crisi, come dire, strutturale che coinvolge tutta i cittadini, com'è, perché prima di emanare un DPCM il Presidente del Consiglio convoca solo gli esponenti della maggioranza e non preliminarmente tutte le forze politiche parlamentari? Sul secondo punto non lo so, la vedo difficile. È un buono spunto, probabilmente è quello che vorrebbero anche nel centrodestra. Mi sembra di difficile realizzazione, in tutta sincerità, di difficile realizzazione. Sul fronte delle regioni, guardi, ne abbiamo parlato lungamente, ha ragione, le prossime volte ci torneremo su questo tema, però devo dire la verità, c'è sempre un modo tecnico-politico per il quale a questa domanda si svicola sempre, in qualche modo si svicola sempre. Lo dico perché anche quando fai le domande, ve lo dico molto francamente, anche tecnicamente in termini di intervista, in qualche modo si svicola, perché si dice: hai ricevuto i soldi per le terapie intensive, li hai spesi? No, però i bandi ci devono mettere 3, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, e poi c'è stato il ricorso e non c'è stato il ricorso, e no, è colpa di Arcuri. Adesso Arcuri dice che è colpa delle regioni, le regioni dicono che è colpa di Arcuri. Si continuano a rimpallare la responsabilità e nessuno su questo fronte se la vuole prendere. Nella sostanza abbiamo una situazione che non funziona come dovrebbe. Non funziona come dovrebbe, e non funziona come dovrebbe nemmeno Immuni. Abbiamo aperto questa rassegna stampa con una testata online, e proseguiamo con una testata online, perché oggi Eugenio Cau ieri forse, sono nei giorni scorsi, tanto su internet lo ritrovate sempre ovviamente, sul Post fa un lunghissimo pezzo, lunghissimo ma molto interessante, molto istruttivo, sul perché Immuni non funziona come dovrebbe. Immuni non sta funzionando, ma potrebbe, è il titolo del pezzo. Il quale pezzo, non mi addentro perché vi ripeto è molto lungo, però è molto interessante, entra un po' in quelli che sono i difetti principali. Ve ne cito due su tutti. Il primo è la questione dell'apertura. Chi ha scaricato Immuni avrà visto la segnalazione che è arrivata da qualche parte di dire: aprite l'app una volta al giorno, perché non è detto che vi mandi la notifica di esposizione a un contatto con un contagiato. Cos'è questo contatto con un contagiato? Vuol dire che sei stato per almeno 15 minuti a distanza di meno di 2 metri da una persona che poi è risultata contagiata. L'app Immuni risale indietro di 2 settimane ai contatti di questa persona dal momento nel quale questa persona fa un tampone positivo, e poi dovrebbe inviare una notifica e non è detto che la invii, e quindi bisogna aprirla. Questo dipende prevalentemente non da Immuni ma dai sistemi operativi sui quali gira, cioè Android e iOS, cioè quello della Apple e quello di Samsung, per intenderci, quello di Google. E poi il grande tema, mi sembra, quello che sottolinea Cau in questo pezzo, è cosa succede nel momento nel quale ti arriva la notifica di esposizione ad Immuni. Che cosa devi fare esattamente? Qua si ferma tutto. Perché? In teoria è semplice, lo dice l'app: bisogna contattare il proprio medico di medicina generale e seguire le sue istruzioni. Sarà il medico poi a contattare l'ASL competente. Il fatto è che ciò che decide il medico può variare enormemente e nessuno sa davvero cosa lo aspetta quando, dopo aver ricevuto una notifica da Immuni, decide di segnalarla. Perché? Perché l'app funziona come abbiamo detto, quei 15 minuti possono essere avvenuti in qualsiasi condizione, cioè tu eri al ristorante e avevi a meno di 2 metri, a 1,5 metri di distanza, uno di spalle che poi è risultato contagiato, e quello potrebbe risultare in una notifica da Immuni. Questo significa che i medici si trovano a prendere decisioni difficili con pochissime informazioni a disposizione. Di più, abbiamo indicazioni contrastanti dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Innovazione. Ossia, la circolare del Ministero dice che quelli rilevati da Immuni sono contatti stretti. I medici e i pediatri devono fare valutazione dell'effettiva esposizione a rischio del soggetto, e però la definizione di contatto stretto porta al fatto che teoricamente tu debba stare in quarantena dai 10 ai 14 giorni a seconda della possibilità o meno di fare un tampone. Il ministero, il Post chiede chiarimenti al ministero, il ministero gli dice: bisogna fare la quarantena. Il Ministero dell'Innovazione invece gli dice: quello rilevato da Immuni è sì un contatto stretto, ma poi la decisione sull'imporre o meno la quarantena spetta al medico. Capite che in queste condizioni ti arriva la notifica di Immuni, chiami il tuo medico, ma lo stesso medico potrebbe non sapere che cosa fare. Traffico. Buongiorno. Perché non diciamo la verità che i contagi derivano dalla scuola, non tanto dalla scuola interna, perché all'interno non succedono o non avvengono i contagi, ma sono i ragazzi che fuori non riesce a gestirli? Ma diciamole le cose come sono, che nessuno ha il coraggio di dire questa cosa qua. Allora, io sono assolutamente d'accordo, siamo europei, siamo francesi, però ricordiamoci che i francesi sono gli stessi che hanno fatto un casino in Libia. Ce lo ricordiamo, spero. Ma certo che ce lo ricordiamo, certo che ce lo ricordiamo. Però c'entra, direi, solo parzialmente, se non per questioni puramente geopolitiche, con quello che è successo ieri a Nizza. Un ascoltatore chiede se ma voi ce l'avete installata l'app Immuni? Mi sa di no, io sì. In tutta sincerità, ce l'ho installata l'app Immuni, non ho ricevuto alcuna notifica, per fortuna, naturalmente. Per quanto riguarda invece il primo discorso, il discorso delle scuole, sì, forse sì, forse no. Forse no. Se lei ha visto le famose scene che si sono viste nei centri delle città nell'ultimo periodo, che sono le città dove poi si è verificato il più alto numero di contagi, gente 30, 40 anni, l'aperitivo, la cena, tutta la passeggiatina e tutte queste cose qua. Non è, sì, probabilmente anche i ragazzi, sicuramente, che poi l'hanno portato in casa, però quell'elemento conta tanto, conta tanto. Tutto questo, lo ripeto ancora una volta, senza mettere la croce addosso agli italiani, che qualcuno dice sono comportati male, però abbiamo ricevuto discrete rassicurazioni che tutto sarebbe andato molto bene con questa seconda ondata, è cosa che evidentemente non sta avvenendo. Resta aperto il tema del lockdown. E come la vivono gli italiani? Alessandra Ghisleri sulla Stampa a pagina 13 fa un sondaggio dal quale emerge quello che forse ci potevamo aspettare. I garantiti dicono sì alla chiusura totale, le partite IVA e gli imprenditori dicono di no. Abbastanza prevedibile tutto sommato, però certificato dal sondaggio di Alessandra Ghisleri che ci racconta un po' di altre cose interessanti che poi ci ricollegheranno alla politica, e sono queste. Innanzitutto che in primavera il consenso di Giuseppe Conte sfiorava il 50% e oggi è intorno al 40%. Il calo è netto dopo quest'ultima ondata di contagi. Gli italiani in maggioranza, in stragrande maggioranza, pensano che le restrizioni previste dagli ultimi decreti non siano valide per contenere il virus. È il 60%, il 26% pensa di sì, un 14% non risponde. E il pacchetto di misure con i ristori per i settori danneggiati viene ritenuto insufficiente dal 60% degli italiani. E appunto poi c'è la domanda: chi pensa che sia necessario un nuovo lockdown vede questo. Sono tra i sostenitori, troviamo principalmente i cosiddetti garantiti, cioè lavoratori dipendenti e studenti. Molto più critici gli imprenditori e le partite IVA insieme alle casalinghe. Di sicuro l'auspicio è che sia localizzato e specifico, limitato a singole aree geografiche a seconda dei picchi di emergenza. Questo è il sondaggio di Alessandra Ghisleri, che ci porta dunque su due fronti, sulla Stampa, che ci porta su due fronti, e questi due fronti li prendiamo entrambi da Repubblica, perché su Repubblica a pagina 14 con Rosaria Amato che troviamo la storia della questione di volontariato, mense, colf e professionisti che al momento sono esclusi dai ristori e si sta lavorando per inserirceli, e quindi appunto un altro pezzo di non garantiti, se volete. E dall'altra parte la questione politica che sta esplodendo in vari modi. Il primo modo è stato quello di Marcucci. Chi è Andrea Marcucci? È il capogruppo del Partito Democratico al Senato. Ieri ha detto che serve un rimpasto. Che cos'è un rimpasto? Un cambiamento della squadra di governo. Ci sono dei ministri inadeguati e bisogna sostituirli. Fa infuriare il Partito Democratico, il quale Partito Democratico lo accusa e dice sta parlando per conto di Matteo Renzi, perché era vicino a Matteo Renzi prima e quindi adesso sta parlando invece di Matteo Renzi. E Giovanna Casadio su Repubblica, pagina 11, intervista Marcucci, il quale dice... Non sono a favore di un rimpasto come si dice voglia Renzi, non sono renziano la mia identità, non condivido la posizione di Renzi sul decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma ci vuole un chiarimento politico per garantire forza al governo. Non possiamo andare con un equipaggio incerto e criticato in balia delle onde. Occorre una guida sicura, una maggioranza forte e coesa che dia all'esecutivo le basi di autorevolezza sia nei confronti del Paese che nella comunità internazionale e finanziaria. E qua inizia quel politichese terrificante, per cui Giovanna Casadio gli chiede: ma lei ha chiesto un rimpasto? No, ho chiesto un'assunzione di responsabilità del Premier. È intollerabile il clima politico di questi giorni in cui pezzi di maggioranza, anche in modo ostentato, hanno dato segnali di criticità. Come si può andare avanti così? Beh, però di fatto mi sembra che la richiesta del rimpasto sia sul tavolo. Lina Palmerini ancora una volta ci aiuta a mettere un punto sul Sole 24 Ore a pagina 10, ricordandoci che c'è un'attenzione particolare del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella contro il caos istituzionale. Ci sono due aspetti nelle fibrillazioni che si sono scatenate ieri nella maggioranza. La prima è che i partiti sanno che non c'è il voto anticipato, quindi non rischiano di perdere il seggio e spingono l'acceleratore minacciando la crisi, ma solo per alzare il prezzo nella trattativa per il rimpasto, ora o mai più. Perché tra qualche giorno si potrebbe entrare in uno scenario più drammatico, con probabili lockdown. Dunque si chiuderebbe la finestra di un nuovo ingresso nel governo da parte di esponenti del PD o di Italia Viva. Già, perché nel mirino ci sono i 5 Stelle, che non hanno pagato dazio per la perdita di consensi. E soprattutto c'è Conte, il commento più gentile che si sente è che è statico e decide tutto in solitario. Dunque... siamo qua col Covid e si pensa a quali ministri piazzare nel governo. Che dobbiamo fare? È così. Ad altro hanno a cui pensare le imprese, con Marco Mobili e Gianni Trovati a pagina 3 del Sole 24 Ore. Andiamo su questa vicenda degli aiuti di Stato, degli aiuti alle imprese, perché era arrivata una circolare che diceva che c'era che il tetto di 800.000 euro per gli aiuti alle imprese sarebbe stato non per singola azienda ma per ogni gruppo industriale, e quindi alcune imprese si sarebbero trovate a restituire del denaro che avevano ricevuto. Ebbene, ci fa sapere il Sole 24 Ore a pagina 3 che il governo sta lavorando perché questo si eviti. Il governo si è rivolto alle imprese dicendogli: questi soldi non dovranno essere restituiti, state tranquilli. E su questo fronte sta trattando con Bruxelles esattamente per questo. Cosa ancora direi che possiamo chiudere con una vicenda, è velenosetta la cosa, siamo a pagina 15 della Verità. Il titolo è Affari di famiglia, si parla dei lavoratori del suocero di Conte, Paladino, che è un imprenditore del settore alberghiero che non paga gli stipendi ai lavoratori, così scrive la Verità, almeno questa è la loro denuncia. E c'è un altro elemento, che il papà della compagna del Premier ha chiesto la revoca di una condanna per mancati versamenti delle tasse di soggiorno. In forza di cosa? In forza di un decreto che è il decreto rilancio del 19 maggio del 2020, ed è proprio il decreto di rilancio che consente a Paladino, così come a tutti coloro che non hanno versato le tasse di soggiorno ai comuni, di appunto evitare di avere una revoca della condanna. GR24, ci risentiamo tra poco con Paolo Mieli e poi parleremo di Nizza.